24 mattino. Sempre Candreva. Due avversari su di lui. Candreva va sul fondo, il cross dalla parte opposta, il colpo di testa di Immobile e passa in vantaggio l'Italia. In partite come queste è chiaro che occorre costruire, occorre giocare la palla molto più velocemente di quanto non l'abbiano fatta soprattutto nel primo tempo. Un primo tempo che ha deluso un po' tutti. Italia a fatica, ripresina Italia, l'Italia è Immobile. Non sono i titoli dei quotidiani economici, sono i titoli dei quotidiani sportivi di oggi. Di nuovo il calcio, forse come metafora di un paese sospeso fra la ripresa e lo stress. Allora, oggi la grande questione ovviamente è quella della malaria. La malaria, la bambina trentina morta di 4 anni perché contagiata, all'inizio grande polemica, ci sono gli untori, non ci sono. Io parto da Libero perché mai come oggi i giornali sono divisi, ma questi titoli di Libero di oggi sono pazzeschi. Dopo la miseria portano le malattie, immigrati affetti da morbi letali diffondono infezioni, basta che una zanzara punga prima un malato e poi uno sano e quest'ultimo muore, il governo se ne disinteressa e insiste con l'accoglienza. Poi apro perché vanno letti in sequenza: infettata dagli africani muore di malaria a 4 anni, la piccola era ricoverata all'ospedale di Trento, lì sarebbe stata contagiata da 2 bambini africani che avevano contratto il virus in Burkina Faso. Dopo la miseria ci portano le malattie e poi ancora migranti non controllati e così arrivano i virus. Queste le prime 5 pagine di Libero. Ci sarà polemica, dice il direttore Pietro Senaldi nel suo fondo, e comincia così. Questo è un articolo che Libero non avrebbe mai voluto scrivere. Una bimba di 4 anni, ricoverata in ospedale, è morta di malaria, malattia scomparsa in Italia da più di 50 anni nel giro di 24 ore. Sembra quasi certo che a trasmetterlo siano stati 2 fratellini del Burkina Faso, Africa nera, figli di immigrati. I piccoli erano tornati nel paese di origine per le vacanze e lì si sono ammalati. Rientrati in Italia sono stati curati, grazie a Dio stanno bene, ma la sfortuna e anche un po' di mala sanità ha fatto sì che una zanzara pungesse nuovamente i ragazzini infetti. E poi la piccola italiana iniettandole la morte. Di qui il nostro titolo, crudo ma fattuale: dopo la miseria portano le malattie. Sicuramente verremo criticati, scrive Senaldi sul Libero, per la sintesi brutale dei fatti, ma è altrettanto vero che non siamo gli unici ad aver fatto questa valutazione. Anzi, siamo sicuri che la maggior parte degli italiani la pensino come noi. Questo è la posizione del quotidiano di Vittorio Feltri, Pietro Senaldi. Se volete l'opposto, perché su questo tema c'è il massimo della controversialità, il massimo della divisione, l'editoriale di Avvenire, le due malattie, tragico lutto e caccia agli untori. Un conto, scrive Giuseppe Anzani in questo fondo di prima pagina del quotidiano cattolico, un conto è l'urto impressionante dell'allarme dal lato sanitario per il caso più unico che raro e il bisogno di un'indagine di precisione assoluta senza la quale si rischiano vaniloqui. O un altro conto è il rigurgito di parole insensate sulle orde di finti profughi che stanno invadendo l'Italia senza che i governanti assicurino che queste orde non portino gravissime malattie. È un'immagine, scrive Anzani su Avvenire, che sembra evocare la peste portata al seguito dai Lanzichenecchi nel racconto del Manzoni, chiedendo scusa allo scrittore lombardo per qualche differenza stilistica. Un modo per gettare la tragedia di questa morte sulla bilancia dei rancori preventivi, della rabbia, dell'astio verso un'intera moltitudine di persone che non c'entrano e che sono additate come indistinto bersaglio di massa. Di nuovo, scrive Avvenire, il cortocircuito del pensiero che cerca il capro espiatorio costituisce la categoria degli untori. Sono 2 punti di vista totalmente opposti, come vedete, è una grande battaglia politica. Sul Corriere della Sera trovo delle informazioni interessanti anche dal punto di vista storico-culturale, le febbri fatali di Caravaggio. Poi scopriamo che l'ultimo caso non era 50 anni fa, ma nel 97, pensate un po', in Toscana. L'ultimo caso passato alle cronache, leggo dal Corriere, Marco Gasparetti. Risale a 20 anni fa. Quella volta a essere infettata fu una contadina settantenne che viveva in un podere delle campagne di Castiglione della Pescaia, Maremma Grossetana. Non morì quella donna, che non aveva mai messo piede fuori dall'Italia, grazie all'intuizione e al coraggio del medico condotto che, rischiando di essere preso per pazzo e litigando anche con alcuni colleghi, la fece ricoverare per sospetta puntura di zanzara anofele. Da quasi 40 anni nell'ex Maremma Mara, dopo le febbri malariche che avevano ucciso anche Caravaggio, non si parlava più di zanzara killer. Si scoprì poi che la donna era venuta in contatto con una bambina indiana malata di malaria e si ipotizzò che tramite una zanzara la piccola avesse contagiato l'anziana contadina. Pensate, in questa storia c'è già tutto, ma non è lontana 100 anni fa, non è inaccessibile, è una possibile spiegazione. Fra l'altro di malaria sono morti tanti, potenti, era la malattia che rendeva uguali, i due figli e la moglie di Cosimo de' Medici, un terzo figlio, Ferdinando, contagiato, che si salvò miracolosamente, la cruda sorte, la chiamavano, toccò al Granduca Francesco I e alla moglie Bianca Cappello, che agonizzarono per giorni per le punture mortali delle zanzare. Si ipotizzò anche che Dante, pensate, morì di malaria non in Toscana, ma durante l'esilio attraversando le valli del Comacchio. Marco Gasparetti, interessantissimo questo pezzo sul Corriere della Sera, che poi è uno di quei paginoni con la grafica in cui vedi anche la zanzarona, e la domanda è: ma quella zanzara è ancora in Italia? Grande domanda a cui rispondono con la formula delle domande e delle risposte Ruggero Corcella e Luigi Ripamonti sul Corriere della Sera. Ovviamente è tutta da leggere per chi è interessato. Però la morale di questa vicenda io la voglio far tirare ancora una volta oggi a Mattia Feltri, perché il suo, come dire, editorialino oggi, il suo editoriale di prima, il suo corsivo, il suo buongiorno è spiazzante, ha una morale totalmente diversa da quelli che di solito urlano e inveiscono contro i complotti, contro i vaccinatori, contro le multinazionali. Leggete. Mattia Feltri, buongiorno. Sono giorni gloriosi per la Lega. Lunedì il senatore Paolo Arrigoni ha sostenuto che l'obbligo di vaccinazione serva soltanto ad accontentare le multinazionali farmaceutiche. Ieri Tony Iwobi, responsabile leghista per sicurezza e immigrazione, ha chiesto frontiere chiuse ed espulsioni di massa. Commentava il caso della bimba ai 4 anni, morta di malaria. In realtà sul tema si è esercitata anche Forza Italia. Il deputato Michela Biancofiore ha ipotizzato che la bimba, scrive Mattia Feltri, si sia ammalata a causa di una zanzara sbarcata a Lampedusa e poi arrivata a Trento, una sorta di zanzarinic evidentemente. Ora, visto il clima, a ricordare che si sta parlando della morte di una bimba ai 4 anni e di una famiglia devastata si rischia il titolo di buonisti. Forse, chissà, avrà più successo ricordare agli estrosi leader che si è tali se si producono analisi un po' più elevate di quella che potrebbe produrre alcuni di noi dopo una bottiglia di Sangiovese. Però i punti più importanti sono due, ricorda Mattia Feltri. Primo, secondo uno studio decennale di Lancet, ogni anno vengono importati in Italia, pensate, non uno, ma 637 casi di malaria, la maggior parte dei quali attraverso voli commerciali, non barconi. Secondo, dopo 30 anni di studi che sarebbero stati di più senza i finanziamenti di Bill Gates, è pronto il vaccino contro la malaria che l'azienda farmaceutica inglese GSK sta somministrando in Ghana, Kenya e Malawi, dove le zanzare uccidono un bambino ogni 2 minuti. Ah, conclude Feltri, le parole chiave di questo articolo sono malaria, vaccino e multinazionale. E questo è quello che volevo raccontarvi, aggiungendo solo una cosa che ho trovato su Repubblica, è abbastanza importante, ma non lo trovo. Allora, passiamo a una seconda notizia. La verità, continua la polemica sulle proteste dei risparmiatori, e c'è una seconda puntata di Giacomo Amadori, l'avevamo letto ieri, i risparmiatori arrabbiati, quelli, gli obbligazionisti che protestano contro il decreto sulle banche, quelli che sono andati a contestare non solo Renzi ma i ministri e tutti gli altri. Ebbene, il pezzo di Amadori scrive, indagando su questa vicenda: c'è un cordone protettivo che salva la Boschi da chi protesta in piazza. E questo pezzo sulla Verità a pagina 5, e quello che scrive Amadori è che la Digos ordina, vietato disturbare la Boschi. Non solo Renzi, un cordone protettivo salvaguarda la sottosegretaria dalle proteste dei risparmiatori delle quattro banchette, tra virgolette, azzerate dal decreto del 2015. Ma il 4 ottobre a Roma sarà difficile fermare la grande manifestazione nazionale dei truffati degli istituti. Molti risparmiatori, scrive Amadori, delle quattro banchette azzerate dal decreto salvabanche stanno subendo, come abbiamo raccontato ieri e domenica, oltre il danno anche la beffa, ovvero l'umiliazione della schedatura. Chi si è unito in comitati e associazioni per difendere i propri interessi viene sorvegliato dalla Digos delle varie province e bloccato quando è in procinto di avvicinarsi a una manifestazione in cui sia prevista la presenza dell'ex premier Matteo Renzi, un cordone sanitario che non protegge solo lui, ma anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Allora, qui si pone una domanda, fra l'altro i vostri sms anche oggi al 349-238-6666, la domanda è: ma si può fare qualunque cosa, si può anche sbagliare in Italia, però il diritto di manifestare, senza essere, come dire, bloccati, intercettati, dovrebbe essere sempre salvaguardato. Traffico. Ventiquattro mattino. Bentornati, 24 mattino, Luca Terese, lo spazio della rassegna stampa. 8 settembre 2007, dove eravate? Io ero a Bologna, da inviato in piazza di una manifestazione un po' strana che era considerata a cavallo fra politica e spettacolo. Non c'erano i grandi inviatoni, non c'erano le grandi televisioni, perché quel giorno seguivano, pensate, un comizio del leader del Partito Democratico, poco lontano, sempre in Emilia Romagna, che era Walter Veltroni, e invece quello era il giorno del Vaffa Day. Andate a fanculo! Però non mi sarei mai ricordato di questo anniversario se oggi ben due pezzi, in modo totalmente opposto, è il bello dei giornali, non lo ricordassero. Allora, sul Fatto, un paginone di Marco Travaglio, il direttore del giornale, a 10 anni da quel vaffa che le TV volevano ignorare, vero? E sul Foglio, Davide Allegranti, cosa resta del bluff grillino a 10 anni dal primo V-Day. Sono due pezzi totalmente opposti, mai celebrazioni. Potrebbe essere più irrituale, perché Allegranti, pensate, colmo della perfidia, va a parlare, fa delle interviste a tutti gli ex parlamentari cacciati dal movimento e ne ritrae un quadro impietoso. Poche idee ma confuse, sono come tutti gli altri, anzi peggio. Andate a fanculo! E invece Marco Travaglio fa l'elenco, è molto importante, di quello che è cambiato. Senza quel V-Day non avremmo avuto la legge Severino del 2012. Berlusconi sarebbe ancora senatore e potrebbe ricandidarsi per la 7ª volta alla presidenza del Consiglio. Anche i piccolissimi tagli ai costi e ai privilegi della casta, titolo del bestseller di Stella e Rizzo uscito proprio in quel 2007, non avrebbero mai visto la luce se Grillo e i suoi ragazzini non avessero fatto una bandiera della sobrietà, della democrazia dal basso, della politica senza soldi, la fine del finanziamento dei partiti, almeno nelle sue oscene forme dirette, e figlia di quella stagione, così come le vittorie democratiche nei referendum del 2011 sul nucleare, sull'Odolfano e sull'acqua pubblica, nel 2016 sulla Costituzione. Al Budday, scrive Travaglio, sul Fatto ovviamente, io c'ero a parlare di legalità senza neppure immaginare gli sviluppi di quel movimento nascente, ma nemmeno Grillo e Gian Roberto Casaleggio avevano in mente un partito. Il Budday era l'estrema conseguenza dello sdegno sfogato da Grillo in anni di spettacoli, già pienamente politici, anche a sua insaputa. Energia alternativa, nuove politiche dei rifiuti, ambientalismo spinto, crack bancari, quello di Parmalat l'aveva anticipato. Anticipato lui di un paio d'anni, invettive contro la mala politica, la mala finanza, la mala informazione, comico e difensore civico, tutt'altro che antisistema, sperava ancora di indurre il sistema a calci in culo ad autoriformarsi. E beh, questo è un anniversario che impone un bilancio. Io darò un'opinione che forse stupirà tutti: rivorrei in questo momento un po' di finanziamento ai partiti, un po' di tutela dal virus dell'improvvisazione, che insieme a tanti cambiamenti positivi che ricorda Travaglio si è incistato nella politica italiana. Ma adesso faccio un salto sempre sul Fatto. Vi ricordate quella meravigliosa combriccola dei film di Monicelli? Vi ricordate l'armata Brancaleone? L'uomo allo mio servizio non teme né piova né sole né fuoco né vento. Lo quale servizio? Siamo tutti allo pari. Silenzio! Io vi sono duce! Escite dalla fanga che io farò di voi cinque un'armata duce, veloce e tardita. Siamo quattro! E io farò di voi quattro un'armata veloce e tardita che sia veltro e lione al tempo stesso. Seguitemi! Branca, branca, branca, leon, leon, leon. Boom! Vabbè, fantastico. Lo vedete che basta sentire un frammento ed esce fuori un'emozione. Forse l'unica chiave, parlavamo ieri di Amici miei, di raccontare l'Italia, è la commedia all'italiana. È il leon, leon, leon, è questa dotta lingua, questo gramblò inventato per l'occasione e incarnato meravigliosamente da Gassman. Perché ve lo leggo? Perché mi viene in mente l'armata Brancaleone quando leggo e devo raccontarvi, come farò fra poco, quello che succede a sinistra sulla Sicilia. Ma il mix che mi fa venire in mente la politica armata Brancaleone è un pezzo bellissimo, colto, di Alberto Malvolti, sempre sulle pagine del Fatto. Si intitola Lingue selvagge, così parlò Brancaleone. La Fondazione Montanelli studia il vocabolario del film e che cosa scopre? L'armata Brancaleone, il film di Mario Monicelli, vincitore di due nastri d'argento al Festival di Cannes, deve la sua fortuna a diversi fattori: la bravura di Gassman, Gian Maria Volonté, Enrico Maria Salerno, solo per citare i più noti, i suggestivi paesaggi dell'Alto Lazio, della Val d'Orcia, dove furono girate molte scene, l'originale colonna sonora e non ultima la vivace lingua parlata dai protagonisti. Di quest'ultimo aspetto però si è parlato sabato alla Fondazione Montanelli di Fucecchio, in cui si scopre che questo film era la fusione di tantissime e coltissime letture. Sì, Brancaleone conosceva Dante, Pascoli e Machiavelli. L'analisi della sceneggiatura, scrive Malvolti, del capolavoro di Monicelli sfata il luogo comune della lingua inventata e strampalata. Ci sono riferimenti anche a Pulci, Belli e Manzoni. Ridateceli, per carità di patria, ridateceli, perché noi dobbiamo entrare dentro la vicenda siciliana. Lo facciamo con Repubblica. È importante la Sicilia perché ormai, lo dicono tutti, è il passo prima delle elezioni politiche, il grande banco di prova. Allora, cosa sta succedendo? Hanno litigato ieri, sia pure a distanza, Pisapia e Bersani. Pisapia ha detto è a rischio il progetto, lo avete sentito, ve l'abbiamo fatto sentire, il progetto originario di un'alleanza di centrosinistra. Rompono perché il leader di Campo Progressista, ex sindaco di Milano, vuole sostenere l'alleanza con Alfano che Renzi ha fatto in Sicilia, e invece Bersani nemmeno ci pensa, anzi è addirittura arrabbiato e dice: ma che cosa vogliamo fare noi con questi qui? È arrabbiato perché non crede che gli elettori di sinistra vogliano questa alleanza, e anche, pensate un po', perché non lo invitano neanche alle feste dell'unità. Oggi che parlano fra loro. Lei ci sarebbe andato, ovviamente. Ma io dove cado? Mi chiamo, sono pronto, vado, ad andare alle feste dell'unità. E allora Silvio Buzzanca, Giuliano Pisapia scuote il cantiere della sinistra. Erano 10 giorni che si attendeva una sua parola sull'intreccio fra manovra in Sicilia e quadro nazionale e alla fine il leader di campo progressista ha parlato ieri mattina, intercettato a Roma da Repubblica TV, e ha bocciato il sostegno dei bersagnani a Claudio Fava. In Sicilia hanno fatto scelte che non condividiamo. Pisapia aveva appena discusso la linea col gruppo dirigente di campo progressista in un albergo dove qualcuno aveva chiesto di rompere definitivamente con Bersani e soci. Invece è arrivato un comunicato in cui si legge che il progetto civico costruito dalle Luca Orlando intorno al rettore Fabio Micari si è messo a rischio per via dei partiti che stanno giocando una competizione nazionale. Già siamo nel politichese, oddio, non se ne può più! Cioè, nel senso, siete alleati? Bene, volete rompere? Rompete, però con un po' di, come dire, con un po' di nettezza, di chiarezza. Allora, il pezzo del giorno, Carpisa, io l'ho trovato solo sulla Verità. Parlavamo di queste borse dopo il successo del Buondì, che oggi viene raccontato bene anche da Gramellini, il problema delle borse. Avete sentito di che cosa parliamo? C'è una pubblicità, una campagna promozionale, diciamo, se vuoi lo stage compri una borsa e puoi vincere un 500 euro, 30 giorni di lavoro e devi scrivere un piano marketing. Carlo Piano, penna del giornale diretto Belpietro, ovviamente un po' intinge il pane, beffa di Carpisa, se vuoi lo stage devi comprare le borse, e scrive il giornalista della Verità. Alla Carpisa, azienda che produce borse, hanno avuto una pensata. L'ufficio marketing e quello pubblicità, la paternità dell'idea non è chiara, ha cucito assieme due dati. Il primo articolo della Costituzione, dove si dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e i disastrosi dati Istat sulla disoccupazione. Circa 3 milioni di cittadini senza lavoro, gran parte dei giovani e soprattutto donne. Era semplice, nessuno ci aveva mai pensato prima. Come vendere più borsette? Cosa mettere in palio per attirare nuovi clienti? Non una vacanza ai tropici, troppo banale, non biciclette e neppure soldi, perché sembrava quasi volgare. Bisogna puntare sulla disperazione di chi si aggrappa a qualsiasi cosa pur di trovare un impiego, sull'orgoglio di chi non vuole e non può più essere chiamato bamboccione. Ed ecco, scrive Piano, la trovata geniale. Un premio per chi compra le borse Carpisa e c'è uno stage di un mese rimborsato. Venghino, signori, venghino con 500 euro a cui presumibilmente bisognerà aggiungere trattenute varie. Circa 2,50 euro all'ora, la metà della retribuzione minima oraria di una golf. Per partecipare bisogna avere almeno 30 anni, acquistare una borsa della nuova collezione, inviare il codice stampato sullo scontrino e anche un brillante piano di comunicazione che convinca la commissione di Carpisa a sceglierti. E Piano neanche per lo sponsor di questa iniziativa. Ed eccolo qua, prendere come testimonial la giornalista italo-palestinese Rura Gebral è stata l'ultima trovata, altrimenti impegnata nelle analisi dello scenario politico internazionale, con particolare predilezione per bacchettare i grandi del mondo come Donald Trump, succedeva che sul Corriere della Sera le sue foto pubblicitarie si alternassero a un'intervista in cui stigmatizzava i rigurgiti razzisti di Charlotte, con conseguente smarrimento del lettore. Allora, vedete che ce n'è per discutere, lo faremo fra breve e ovviamente è una grande campagna pubblicitaria. Strada in diretta. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta "24 Mattino". Ed è il giorno delle sorprese, la più clamorosa riguarda un nostro, come dire, compagno di sveglie della mattina, un grande personaggio che aveva acceso l'Italia con la sua edicola Fiore. Ebbene, incredibilmente, Fiorello, almeno noi già sveglie della mattina, ci ha lasciato. Pronto? Il Movimento 5 Stelle cambierà Roma. Destra e sinistra sono uguali. I vecchi partiti hanno ucciso la madre di Bambi e fatto affondare il Titanic. Ma che dico, gli affluenti del Po'? Beh, una catastrofe, una tragedia. Fiorello, torna fra noi Fiorello, perché ogni mattina queste pillolette, come la parodia della Raggi, un po' ci allietavano, ci davano l'abbrivio, ci facevano divertire. E invece, un po' con una strategia a sorpresa, ci racconta Stefano Landi sul Corriere della Sera, Fiorello ha annunciato: chiudo l'edicola, torno al Varietà. L'annuncio è di quelli un po' tristi, scrive il giornalista del Corriere della Sera, per chi ogni mattina si era abituato al cappuccio brioche accompagnata dall'improbabile combriccola di Edicola Fiore. Quindi, almeno per ora, cancellate dal vocabolario televisivo quotidiano erpompa, agonia, cofanella, depresso, i gemelli di Guidonia. Scusate, mi emoziono anche solo a leggere. Fiorello chiude la sua edicola lasciando a casa i suoi ormai più che quattro amici al bar. L'annuncio dello showman per qualcuno era nell'aria, dato che, come tutte le grandi superstar nel loro campo, decide di mollare quando la luce è ancora accesa. E così, dopo la premessa, sono felice per il premio Satira alla carriera che mi sarà consegnato il 16 settembre a Forte dei Marmi, è arrivato l'annuncio. Penso due cose: che sono vecchio e che una carriera l'ho avuta, come le auto d'epoca. Noi che abbiamo una certa età dobbiamo andare piano, non possiamo rincorrere i giovani, abbiamo bisogno di essere accarezzati. Così ha detto Fiorello quando ha aperto l'agenda annunciando che non riprenderà la pluripremiata Edicola Fiore. Però la partenza anticipata, un classico di Fiorello, è accompagnata anche dall'annuncio che un po' di Varietà lo farà. Ho bisogno di nuovi stimoli, ha detto Fiorello, racconta Stefano Landi. E nel futuro dei suoi programmi c'è una nuova scommessa, una trasmissione radio social alza bandiera su Instagram e Facebook, che andrà in onda al mattino verso le 8 con lui solo, senza spalle, in mezzo fra musica e discussione sui temi caldi. Bene, è così Fiorello, con un colpo al cuore ed anche una speranza. Allora, vi dicevo del pezzo del Sole di ieri sulla inchiesta che raccontava l'aumento purtroppo di coloro, gli italiani, che non riescono a portare a termine la terza media. Voi direte: cosa c'entra? Invece c'entra, e giustamente il Sole 24 Ore torna su questa notizia con un fondo di Carlo Garboni, in cui si cerca di analizzare il perché e si punta un po' il dito su questo fenomeno ignorato da tutti gli altri giornali. La scommessa sbagliata di istituzioni e famiglie, scrive Carlo Carboni. Il dato è di quelli sconcertanti: in Italia gli under 35 che si fermano alla terza media sono di nuovo in aumento, ci relegano in coda in Europa e accanto a paesi in via di sviluppo. Speriamo sia un fuoco di paglia, una sbandata improvvisa ed episodio ingigantita dagli scricchiolii che si susseguono nel nostro sistema di istruzione. Precludere ai nostri giovani una prospettiva educativa e formativa all'altezza delle grandi trasformazioni in corso è un vero suicidio sociale in tempo di machine learning. Purtroppo diversi attori sociali concorrono a questo rischio, ad esempio i nuclei familiari colpiti dalla crisi e frustrati dalla lenta ripresa, che si sono ritrovati a sbarcare il lunario con acrobazie che hanno influenzato le strategie verso i propri figli. Insomma, gira e rigira, si torna sempre lì. Anche questo impoverimento, anche questa terza media che i ragazzi non riescono a raggiungere, i ragazzi italiani, o la raggiungono con più difficoltà, anche questa è figlia della crisi. Voglio poi leggervi una notizia interessante sulle polemiche che si aprono intorno alla marcia nera, l'anniversario della marcia su Roma. Ne scrive Berizzi su Repubblica. E pensate, oggi è il giorno in cui, secondo il Corriere, diventa più difficile la tutela delle balene, ed è anche il giorno dell'annuncio della Marcia dei Patrioti, convocati a Roma il 28 ottobre da Forza Nuova per l'anniversario della, come dire, evento di scaturigine del fascismo mussoliniano. L'iniziativa nell'anniversario per dire no allo Ius Soli e fermare la violenza e gli stupri degli immigrati. Tante adesioni su Facebook, sono sicuro che seguono polemiche. E ci fermiamo ancora una volta.